E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Conti della Belva di Carlo Alberto Carnevale Maffè e Oscar Giannino. Eccoci qua, è tornata in diretta la compagnia dei Conti della Belva. Io mi conosco, insomma, Oscar Giannino e i nostri compari Carlo Alberto Carnevale Maffè, Mario Seminerio, Francesca Del Rosso. Eccoci qua, io vi dirò immediatamente i temi della giornata, che trovate comunque sul sito. Se andate sul sito di Radio 24, programmi Conti della Belva, c'è una bella schermata dove, oltre agli argomenti che adesso rapidissimamente vi riepilogo, trovate i documenti, parecchi documenti che noi richiameremo nel corso della trasmissione. Di cosa parliamo oggi? Molto semplice. Innanzitutto cerchiamo di capire insieme a voi la sharing economy, quindi che cosa vuol dire home sharing, car sharing, bike sharing, anche però il lavoro condiviso e i finanziamenti condivisi. Esatto, è un principio per cui i cittadini si arrangiano in maniera organizzata. Come a noi piace il diritto di proprietà, vogliamo ottimizzarlo meglio, e non è solo per i ricchi, ma è soprattutto anche per chi deve trovare buone soluzioni avendo meno reddito, come capita in questi anni. Quindi c'è un bel pacchetto di argomenti e ospiti con documenti richiamati su questo. Poi ci occuperemo molto di lavoro, in particolare i nuovi lavori, ma come si contrattualizzano in questo paese? Non è che abbiamo la testa vecchia col vecchio mercato del lavoro, diritto del lavoro, e i lavori nuovi fanno a pugni con questo. Non sarebbe meglio parlare di questo piuttosto che dell'articolo 18 nel Jobs Act? Vedremo. Altro blocco su garanzia giovani, politiche attive e politiche passive. Abbiamo troppe politiche passive, cighe in parole povere, per il lavoro, poco o niente di quelle attive, e quindi partiremo dal flop di garanzia giovani. Poi avremo un caso clamoroso di un imprenditore che ci racconta un fallimento che non doveva avvenire, quello della sua impresa, che è colpa della giustizia, una riflessione su come la giustizia non ragiona e non funziona. Ma anche le telefonate, io ve le chiedo su alcuni temi della settimana bollenti, come conferma canone RAI in bolletta, e anzi oggi sul Messaggero vi si dice chiaro che pagherete il doppio canone sulla seconda casa, pagherete ogni canone per ogni utenza di ogni membro della famiglia, pagherete in maniera diversificata, perché il problema è che se la bolletta elettrica è al proprietario e voi siete l'affittuario, voglio vedere come ve la cavate tra proprietari e affittuari. Questo sarà il casino inevitabile, e aggiungo, chi offre il servizio telefonico diventa sostituto d'imposta e lo Stato si rivarrà su di lui se non vi spegne la luce, perché voi dite no, io ti pago la bolletta elettrica ma non ti pago anche il canone nella bolletta elettrica, come dice l'autorità di garanzia del mercato elettrico peraltro. Quindi attenzione, vi si dice che è una cosa bella, è vero, funziona così in Grecia e in Macedonia, negli UK anche funziona così, ma lì c'è la BBC, qui ce lo fanno senza la BBC a dire la verità. Comunque il problema è vedere come la pensate voi. Altre cose della giornata. Stamattina Renzi scrive a Repubblica, dice che o il paese lo cambia lui da sinistra o lo cambiano i mercati, ma è proprio così, i mercati sono un partito contrapposto alla sinistra o alla destra. Io dico di no, vediamo cosa dite voi nelle telefonate. Altri eroi della settimana? Eroi della settimana sono quelli che hanno scelto al MEF di finanziare tutto l'acquisto degli macchinari industriali di tutte le imprese italiane con 12 milioni l'anno nel 2015. Danno 140 milioni di euro ai forestali della Calabria e 12 milioni per finanziare la legge Sabatini. Ma siamo matti? No, siamo in Italia, per così dire. E poi un altro eroe, quelli che vi dicono di fidarvi del 730, ne abbiamo già parlato, ispettore del lavoro friulano, che per anni incassa sia la pensione sia la retribuzione, si autodenuncia lui, e a quel punto viene condannato penalmente. Lui si autodenuncia, inizia a restituire allo Stato quello che vi vuole mandare i 730 precompilati, e a quel punto, invece di premiarlo perché lo Stato gli ha pagato sia la pensione che la retribuzione, viene condannato penalmente e gli si dice cattivo, era meglio se non ce lo dicevi, così continuavamo a pagarti sia la retribuzione che la pensione. Ecco, queste sono alcune cose della settimana. Spirito della trasmissione, suonate la carica. Allora, Francesca, iniziamo a capire un secondo meglio, richiamando anche quello che abbiamo messo sul sito, i dati eccetera eccetera sulla sharing economy. Beh, innanzitutto io la trovo una genialata, la sharing economy, perché la trovo proprio un metodo anticrisi, parliamoci chiaro. In qualche modo qualcuno può guadagnare e qualcun altro può invece

di rispettabili opinioni, io non le condivido, però ci sono, di nostri ascoltatori che dicono: state spiegando che bisogna girare eludendo gli alberghi, i loro piani di sicurezza, i loro costi fissi, e siete ovviamente, fate propaganda all'evasione. Non potete mettere sullo stesso piano i ristoratori che hanno elevatissimi costi fissi con la cosa della zia Pina. Che risponde a questo Gianluca Ranno? Allora risponde che innanzitutto quelli, i ristoranti di casa sono ristoranti saltuari, rientrano nel regime dei minimi e sono eventi privati. E rispondo anche dicendo che i ristoratori tutti e anche gli alberghi si stanno anche rivolgendo a noi per studiare un'offerta. Nel senso, noi siamo un'opportunità. Ti faccio un esempio banale, nel senso, quando è uscita la mail, le Poste non hanno chiuso, semplicemente hanno diversificato il modello. Si tratta qui di capire come unire le forze, secondo me. Quindi si tratta di un progetto di complementarietà rispetto all'offerta tradizionale, che va a prendere una domanda magari con meno soldi da spendere o che cerca esperienze particolari. Assolutamente. Assolutamente. Allora, è tornato con noi l'avvocato Guido Scorza, e lo metterei subito al centro di questa questione, perché le reazioni dell'economia tradizionale, iperregolamentata, ipercoperta di costi, di regolazione, di sicurezza, eccetera, eccetera, ovviamente reagisce dicendo: beh, che cos'è questa storia? Ci volete aggirare con l'economia della condivisione? Avvocato Scorza, che pensa? No, la mia sensazione è quella che cominciavo ad esprimere prima, cioè in realtà il regolatore in questo ambito dovrebbe fare un passo indietro, deregolamentare il come si fanno le cose, preoccuparsi che le cose si facciano, non preoccuparsi troppo del come, e soprattutto rinunciare a questa idea, che è per la verità un po' antica, che non appartiene alle cose di oggi, secondo le quali per fare mercato serve una benedizione dello Stato. L'idea è che in realtà non che tutti possano fare tutto e che non debbano esservi delle regole in senso assoluto, ma che si debba ritrovare il senso di uno Stato che vieta ciò che va contro l'ordine pubblico, ciò che lede la salute dei cittadini, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè ciò che davvero è una minaccia davanti alla quale il consumatore non sa difendersi. Anche perché, avvocato, lo Stato come controllore della qualità non è che sia bravissimo a fare questo mestiere. Il senso economico della licenza è: io stabilisco gli standard minimi, quindi proteggo i cittadini dal rischio della bufala. Ma con questi meccanismi di condivisione dei giudizi noi riduciamo molto questo rischio. Quindi lo Stato deve rinunciare a fare il distributore monopolista di licenze in conflitto di interessi elettorali. Esattamente. Io però vi ricordo a tutti che stamattina il Presidente del Consiglio, in una lettera a Repubblica, prima pagina, conclude dicendo che per cambiare l'Italia ci sono due modi per farlo: o la fa la sinistra con lui, la sinistra che lui spiega non è la sinistra vecchia, quella nuova, o la sinistra con lui, oppure i mercati. A me questa contrapposizione radicale tra sinistra e mercati, è chiaro che il Presidente del Consiglio deve recuperare spazio, insomma un po' di consenso a sinistra, però io la considero, al di là del suo punto di vista, della sua parte politica, sbagliata in radice, perché i mercati non sono la destra, la sinistra, sono un'altra cosa. Mario, tu che dici? I mercati sono strutture sociali, per definizione. Quindi bisogna cercare di giocare con le strutture sociali, non facendosi imporre le regole di queste strutture sociali, ma neppure usando velleitariamente questi tipi di contrapposizione. Ora, l'intervista del Premier di oggi su Repubblica penso che abbia un contenuto programmatico, un messaggio del tipo anche molto rassicurante, no? Un messaggio in codice del tipo: ci sono i mercati, che sono queste entità demoniache di cui tutti dovete avere paura, e poi ci sono io, che sono la sinistra 2.0, il Blair redivivo, e per cui vi aiuterò ad attraversare il Mar Rosso. È assolutamente lecito fare un discorso di questo tipo, soprattutto da parte di un esperto, diciamo, comunicatore come il Premier. Poi diciamo che come sempre la realtà starà altrove, anche perché il Premier ha più volte espresso una sorta di atteggiamento beffardo del tipo: i mercati, brr, che paura. Poi quando succede realmente e c'è la possibilità, poi alla fine diventano i cattivi, per cui ci si para sempre, diciamo, il fondo schiena. Ma invece noi dobbiamo avere un approccio positivo e costruttivo, Carlo Alberto, perché altrimenti anche noi ci mettiamo a fare queste cose è sbagliato. E qual è l'approccio costruttivo? Cosa ti aspetti in concreto? Noi abbiamo postato un sondaggio che mi ha stupito, lo trovate sul sito della trasmissione Radio 24 Conti della Belva, andate a trasmissione, eccetera, eccetera. Cioè, gli italiani in realtà questa sharing economy la conoscono un po' più e meglio già di quanto secondo me molti colleghi giornalisti credono, non è così? È così, i numeri sono molto interessanti. In realtà la sharing economy è un fenomeno che è stato sposato con grande entusiasmo dagli italiani. Noi abbiamo Airbnb che è tra i maggiori successi mondiali, Gnammo è una startup italiana e direi sulla cucina forse gli italiani hanno qualcosa da dire al mondo, no? Ma lo stesso car sharing, pensiamo a Car2Go, Enjoy, ha un tasso di iscrizione tra i più alti d'Europa, no? Ed è importantissimo che assecondiamo questo fenomeno senza, sia chiaro, quindi nessuno fa la battaglia contro i titolari di licenze o contro tutto il sistema, fatemi dire, basato sull'autorizzazione pubblica. Si tratta di andare in logica di complementarietà e di tollerare benevolmente iniziative private. Questo è un po' il principio. Una raffica di reazioni con gli sms a 349-238-6666. La maggior parte dei quali testimoniano che voi siete proprio fiduciosi verso lo Stato, volete i ROS, i NAS, volete lo Stato che controlli tutto, tutti. Mario, viviamo nel Dederno. Sì, no, infatti diciamo che c'è questa esigenza di controllo e rassicurazione che però dovrebbe anche lasciare spazio, come diceva Carlo Alberto, a integrare, a complementare, perché quello serve a sviluppare la leggendaria società civile, che non sono solo quelli che fanno i girotondi o che si incazzano, diciamo, al sabato mattina o al venerdì mattina. Società civile è ognuno di noi che tenta di mobilizzare le proprie energie e il proprio capitale, che spesso è inerte. E poi ognuno è libero un po' di fare e scegliere ciò che vuole, non sei costretto ad andare su Airbnb, puoi andare in albergo, non sei costretto a usare BlaBlaCar. Mario, tu che per esempio non hai tanta voglia di chiacchierare, esatto, tu BlaBlaCar no, immagino io non lo vuoi usare. Assolutamente BlaBlaCar per me no, grazie. Il concetto della cultura immersiva, quindi se vuoi ti immergi nella cultura degli altri, se no te ne stai per i fatti però tuoi. Posso chiedervi di sentire la voce ufficiale dell'advisor del governo, della mente più lucida nel mondo dell'innovazione, che è l'onorevole Stefano Quintarelli. Stefano, sei in linea con noi? Sono, buongiorno a tutti, buongiorno agli ascoltatori. Tu che consigli stai dando al governo in quest'ottica dell'innovazione? Che come stai illuminando i nostri politici su questo fronte? Ce lo puoi spiegare? Allora, intanto non è che do dei consigli al governo, perché non faccio parte del governo, sono in Parlamento. In Parlamento abbiamo fondato questa cosa che si chiama Intergruppo Parlamentare per l'Innovazione Tecnologica, una settantina tra deputati e senatori, e abbiamo già fatto un convegno di approfondimento sulla sharing economy organizzato da Veronica Tentori del PD, e adesso prossimamente il 1° dicembre ce ne sarà un altro organizzato dall'onorevole Palmieri di Forza Italia, quindi il tema lo stiamo approfondendo. E quali sono le linee di intervento che state discutendo? No, non stiamo, allora per adesso stiamo studiando, no? Perché è buona cosa prima di intervenire e fare proposte di cercare di capire e di studiare. Io ho una mia linea. Dicela. E la mia linea, che è assolutamente personale, è che, vabbè, come hanno già notato alcuni ascoltatori da quello che sentivo, ci sono una serie di controlli e di garanzie che in qualche modo o vanno messi in discussione in senso generale oppure vanno rimodulati sulle nuove forme di intermediazione. Questo è il fatto. Ma lo Stato ha il monopolio della qualità e del suo controllo o può tollerare che un libero cittadino scelga liberamente di mangiare dalla zia Pina per un evento privato? Questo è un buon punto e su questo naturalmente ci dividiamo. Io penso che a me farebbe molto dispiacere andare a mangiare in Messico in una bettola solo per pagare poco e poi prendermi la vendetta di Montezuma per settimane, no? Quindi devo impedirti di farlo, è questo che mi stai dicendo? No, non dico che bisogna impedire, dico che ci devono essere, dal mio punto di vista, dei meccanismi di controllo e di garanzia. Il risultato è che arriveremo in ritardo, lo Stato arriverà in ritardo. Lo Stato arriva per definizione in ritardo. Ci sono alcuni controlli, cioè, poi possiamo decidere che alcuni dei controlli sono diventati delle sovrastrutture delle quali non abbiamo più bisogno, che sono solo un costo, e molti di questi sicuramente lo sono diventati. Però io mi pongo nell'ottica che bisogna anche pensare alle persone più deboli, no? Perché in uno scenario c'è un tema fiscale e su quello magari torniamo, certamente. Qui c'è un tema proprio di qualità. E di profit shifting, no? Cioè base erosion e profit shifting. Diciamolo in italiano onorevole, cioè di spostamento dei profitti in territori fiscalmente più, diciamo, gradevoli. Questo è un tema sicuramente. No, meno rapinosi, non più gradevoli, meno rapinosi. Però guarda, sul tema della qualità dobbiamo tornarci, perché il giudizio sociale, il giudizio distribuito è invece tempestivo, magari non efficientissimo, ma certamente molto efficace. Cioè, convince le persone della qualità molto meglio dell'ispezione ufficiale dei, dei NAS e dei ROS. Allora, io penso che la questione da recuperare sia l'apertura dello Stato. Lo Stato è monopolista della regolamentazione, pretende di dire lui che cos'è la qualità, la sicurezza, la sanità che gli sono affidate per leggi pubbliche. Io penso che bisogna rompere questa breccia, rompere con delicatezza, con le leggi. Però penso che quelli come Stefano Quentarelli hanno il compito di aprire le orecchie ai più che, per antico riflesso condizionato e ignoranza di che cosa sono questi nuovi fenomeni, secondo me, hanno un riflesso condizionato non perché li respingono, ma perché non li capiscono. Certo, infatti io apprezzo l'idea di studiare, capire, tirare fuori un po' di numeri. Questo è importante prima di legiferare, certamente senza pregiudizi, onorevole. Assolutamente. Faccio un esempio. Spesso vengono richieste per partecipare a delle gare d'appalto, quindi a degli acquisti fatti dalla pubblica amministrazione, delle certificazioni. Le certificazioni sono, che so, ISO 9000 o cose di questo genere, sono delle forme di controllo qualità per cui l'organismo di regolamentazione ha stabilito le norme, ma poi la verifica della qualità la fanno i privati. No, questo qui è un meccanismo per dire, cioè non è necessario che ci sia il monopolio del controllo della qualità. Certo. da parte dello Stato, del pubblico. Ci possono essere delle forme miste, però noi dobbiamo anche, cioè, dobbiamo tenere presente che appunto queste cose non dobbiamo buttare via il bambino con l'acqua sporca. No, nessuno vuole farlo. Ci sono delle cose per le persone meno fortunate, no? Che non so, il bagno per gli invalidi e questo è un tema, no? Cioè, allora poi possiamo decidere che non serve più, oppure possiamo decidere che se tu hai 10 appartamenti magari in uno lo devi mettere. Oh, no, chiarissimo, e dare a qualcuno, quindi la funzione di, per così dire, di tutela, no? che significa una funzione fondamentale di diritti per chi ha meno empowerment, è una questione di fondo. L'apertura verso questioni di mercato più condivise, per esempio, noi andremo in un mondo, ne parlavamo con Carlo Alberto, in cui la gente non comprerà più neanche i beni durevoli a vita, no? No, infatti c'è un mondo in cui, come dire, i capitali sono scarsi e dobbiamo mettere in circolo quelli già investiti, quindi le case, le cucine piuttosto che le automobili. E in questo senso la qualità garantita dallo Stato ci sta come una delle offerte, e lasciate libero il cittadino di valutare la qualità quando non mette a rischio la vita. Forme organizzative nuove. Sentiamo l'esperienza di Elisabetta Favale, che ci racconta appunto della difficoltà di un'esperienza di questo tipo. Elisabetta, buongiorno e grazie, sì, di essere con noi. Salve, grazie, un piacere. Allora, tu cosa hai provato a organizzare? Io ho provato a investire, ho investito per 2 anni in un progetto di economia collaborativa, quindi sharing economy, basato però su, io volevo creare un welfare condominiale. In che senso? Siccome appunto stavamo dicendo che molte famiglie oggi subiscono questa crisi, ma continuano ad avere delle necessità. E quindi tu cosa offrivi a livello condominiale? Io offrivo, non so, la badante condominiale piuttosto che la babysitter condominiale. La tata condominiale. Esatto, a quelle famiglie che non potevano permettersi di avere persone per lungo tempo in casa o comunque per molte ore, si ritrovavano sistematicamente ad avere un problema. Quale problema? Che cosa è successo? È successo che, intanto, per cominciare, un privato, dobbiamo sempre appunto capire come le leggi regolano determinate cose, quindi la mia era una cooperativa sociale, mi sono ritrovata davanti a una serie di difficoltà sia di tipo tecnico. Quindi mi era consentito fare questo servizio, ma contemporaneamente venivano fuori poi problemi tecnici su come poi suddividere le quote tra i vari condomini. Ma questo è solo un aspetto. La seconda cosa, proprio una difficoltà della famiglia, che per me era la famiglia target, quindi il ceto medio, a pagare un servizio di questo genere, che comunque costava di più rispetto al lavoro pagato in nero dei lavoratori domestici, che oggi ancora è dilagante. Per cui la realtà in cui io mi sono trovata è che quelli che chiedevano i servizi magari erano le famiglie abbienti, quelle che probabilmente utilizzano il car sharing. La famiglia a cui io invece ambivo a rivolgermi era invece una famiglia che non si poteva permettere comunque di utilizzare un servizio diversamente organizzato, ma che comunque in nero non era, ecco, questo esattamente. Di conseguenza ho trovato che, cioè, secondo me bisogna distinguere tra la sharing economy profit e quella not for profit, tipo la social street o il gas organizzato spontaneamente tra famiglie dello stesso condominio che comprano insieme i beni alimentari. Quello è un conto, e parliamo quindi di una economia collaborativa che aiuta veramente tutti in un momento di difficoltà. Va bene, no, io ti ringrazio perché ci hai fatto capire che poi un conto è dire, altro conto è auto-organizzarsi dal basso, quanto è complicato. No, oltretutto parliamo anche dei servizi, stavamo parlando proprio di servizi per la famiglia, babysitter, tate, badanti per gli anziani. Voglio ricordarvi che in Inghilterra, in Francia, ci sono fenomeni di voucher sociali, cioè di buoni detassati, che consentono un mercato trasparente di queste cose, quindi garanzie anche pubbliche, perché no? Qui nessuno vuole dare contro al ruolo di garante dello Stato, il problema è non deve essere monopolista, e la costruzione di fiducia, che una famiglia fa affidare un bambino a uno sconosciuto, ovviamente vuole garanzie che possono essere sia statali sia private, costruite da un gruppo sociale che le condivise. Questo è il tema, ampliamo, arricchiamo il mercato invece che concentrarlo nelle mani dello Stato monopolista. Allora, i voucher spendibili sulla base del principio della libera scelta del consumatore con soggetti accreditati, siano profit o non profit, per me questa è una delle autostrade del futuro. È il modo per diciamo fare welfare domani senza accentrare la produzione del servizio nello Stato, che invece può fare sempre il regolamentatore e il controllore di ultima istanza. Allora, Vito, dalla provincia di Sondrio. Vito. Salve, buongiorno. Salve. Allora, lei vuole parlare di car sharing? Sì, perché nel senso non riesco a capire come possano conciliarsi i mondi della sharing economy e dell'economia tradizionale, perché non ha valorizzazione il nostro lavoro, purtroppo. Io sono un NCC, un noleggio con conducente, e devo dire che sinceramente, se quando ho iniziato a mettere in piedi la mia attività, a studiare per prendere le patenti necessarie, l'autorizzazione, eccetera, eccetera, avessi saputo che Uber Pop sarebbe arrivata in Italia e avesse fatto quello che sta facendo, probabilmente non avrei fatto questo percorso, ma avrei scelto una soluzione alternativa. Perché le dico molto semplicemente, io è da gennaio 2013 che ho iniziato a prendere le patenti, poi aspettare l'autorizzazione perché non avevo i soldi per permettermi di comprarlo, ho dovuto aspettare il bando del comune. Perché il comune ha pubblicato il bando, a chi ho portato il... Lei lavora con una licenza che ha pagato di tasca sua o lavora in una cooperativa? No, ho aspettato il comune, ho fatto il bando, ho vinto il bando, ho la mia autorizzazione e sono da solo. Però le dicevo, da che è uscito il bando, a che ho portato il primo cliente, per problemi burocratici e simili, ho aspettato sette mesi. Solo adesso sto iniziando a rientrare un pochino dei costi, che le dico indicativamente, ho speso a gennaio 2013 adesso tra 5 e 10 mila euro. Tra 5 e 10 mila euro. Allora, escluso il costo di acquisto della macchina. Vito, guardi, è chiarissimo il problema che ci pone lei. Lei ce lo pone come NCC, ma tantissimi come tassisti ci dicono: scusate, noi non ci potete prendere a calci nel sedere con 180 mila euro, 190 mila a Milano di licenza comprata. Questo è il problema della transizione tra il vecchio che non significa superato, tra questo tipo di servizio. Esatto, e tra un nuovo tipo di servizio e un altro. Qui si tratta invece di tutelare chi ha professionalità, garanzia, chi ha investito. Tutelare non vuol dire garantirgli un monopolio in eternità, vuol dire tollerare una innovazione. E io dico sempre agli amici tassisti e anche agli NCC, usate le lezioni di Uber e dei sistemi di car sharing per massimizzare la possibilità di avere clienti. Cioè, Uber va vista come un'opportunità, usate le stesse piattaforme invece di usare ancora call center antiquati o meccanismi di incontro domande e offerta vecchi di 10 anni. Per esempio, tassisti in ascolto di Milano, avete visto che il TAR ha appena bloccato il centralino unico per i tassisti in vista di Expo, perché alcune delle vostre centrali, non tutte, non quelle delle maggiori, avevano fatto opposizione. È pensabile, secondo voi, nel vostro stesso interesse di tassisti, non avere il numero unico perché qualcuno si oppone tra di voi di fronte a Expo che arriva? Ma e poi dite Uber eccetera, ma voi per primi dovreste dire: ma chi si oppone è un imbecille, perché noi avremo meno clienti così, e gli altri, e c'è la concorrenza di più. Fabrizio da Genova, prego Fabrizio. Sì, buongiorno, grazie. Buongiorno. Dell'ospitalità. Buongiorno. Sì, io non lo so, mi sembra che questa cosa sia affrontata in maniera molto superficiale. Cioè, una licenza è la rimozione dell'ostacolo all'esercizio di un diritto, il che significa che in linea di massima guidare è vietato, ma ti faccio guidare se prendi questa licenza e rispetti determinate caratteristiche per evitare di mettere in pericolo i tuoi simili nel nostro sodalizio. Ora io mi domando, se un ristorante mesce del vino al metanolo, lo Stato interviene ritirando una licenza. Alla zia Pina cosa gli ritiriamo? La carta d'identità? E poi scusate, abbiate pazienza, non raccontiamoci delle favole. Questi non sono eventi privati. Quando si parla di gnammo, parliamo di eventi pubblici. Perché accedere a un locale gnammo, a una casa gnammo o alla zia Pina gnammo non è in funzione delle mie qualità personali, ma del fatto che io sia pagante. Sì, ok? Sì. Quindi non stiamo parlando di eventi privati, ma di eventi pubblici, dove può accedere chiunque. No, no, aspetta, allora, no, Fabrizio, guardi, attenzione, sulla definizione di un evento in luogo pubblico rispetto a privato, il criterio che lei propone giuridicamente non sta in piedi. Non è il problema che se uno va pagando allora è pubblico, non funziona così nel nostro diritto. Detto questo, è chiaro lei che cosa sostiene, dice io voglio che ci sia un pezzo di carta che mi consente l'esercizio di un diritto regolamentato dallo Stato con sanzioni precise. Questo è quello che lei pensa. Posso fare una domanda? Che mestiere fa, Fabrizio? Al mio frainteso, mi perdoni, dottore. No, no. Non sono dottore, sennò mi sembra sempre che siete amici miei. Non torniamo su questo tema della laurea. Guarda, io sono fiero di essere, guardate, ve lo dico una volta, diplomato. Siamo infermieri, posso dire, non dottori. E soprattutto sono più matto che infermiere. Io sono anche più matto che infermiere. Perché sennò, prego, Fabrizio, ci dica. Io sono un povero poliziottaccio da strada, no? E la differenza fra il pubblico e il privato nell'ambito dell'esercizio lo conosco molto bene. Allora, siamo nel privato quando c'è una qualificazione per l'accesso, sì. Cioè siamo soci di un club, siamo soci di... Vedi. Ed è molto stretta questa cosa qua, sta diventando sempre più stringente. Diventa pubblico quando io ho accesso a un evento indipendentemente dalla mia qualità di... Socio. O anche quando la mia qualità di diventa funzionale a quell'accesso. Quindi il legislatore in questo caso è stato abbastanza chiaro. Io voglio dire questo, cioè se deve essere, io ho aperto il primo bed and breakfast di Genova, ok? Il primo in assoluto, parliamo di 10 anni fa, quando ancora il comune di Genova proprio vagava nel nulla quando si parlava di B&B. Ora il B&B è diventato cosa diversa, perché finalmente, e lo dico diciamo dandomi anche un po' la zappa sui piedi, però l'hanno regolamentato, ovvero il B&B lo puoi fare senza una licenza pubblica, però c'è la verifica del comune. Il comune viene a vedere cosa fai e ti mette nelle condizioni che se tu non lavori bene o non rispetti la proposta verso il pubblico, lo devi chiudere, non sì. Potrai più avere quell'autorizzazione, ma questo qua mi Fabrizio, ma lei in un mondo nel quale esiste la libertà dei privati di decidere, valutare, scegliere e poi non confermare la qualità di un servizio, ci crede? O crede che altrimenti chi le paga lo stipendio, cioè lo Stato, è l'unico che ha in mano la facoltà per dire che cosa si può fare e che cosa Giannino come consumatore non può fare? Ma perché io... alla fine, guardi, io ho un sacrosanto rispetto per chi porta la divisa, ma la questione, e ripeto, rispetto tutto quello che fa e viva il fatto che ha fatto anche Belfast. Alla fine l'idea di fondo è filosofica, cioè è lo Stato che lo sa meglio di me o io posso essere libero di valutare, essere deluso, scrivere in pubblico, qualcun altro poi se ritiene che io lo diffamo perché il servizio era buono mi trascinerà in tribunale. Sono due questioni di fondo. Io allo Stato come giudice della qualità vedo quello che ci offre e quello mi paga a voi e dico che come giudice della qualità mi perdoni, mi fa schifo. Posso mediare su questa forma. Fabrizio, lei ha ragione a chiedere una sanzione per chi truffa o viola i patti col consumatore, ma i moderni strumenti di applicazione di questa sanzione si chiamano brand e giudizio sociale. Se un brand, anche di un piccolo ristorante, anche della signora Pina, tradisce le attese del consumatore, semplicemente sa qual è la sanzione, non ci va più nessuno, perché ormai la trasparenza dell'informazione è un dato di fatto. E vi faccio dire, i giudizi sociali sono molto più efficaci e molto più tempestivi di quelli dello pubblico. Stato. Molti sms da quelli che sono preoccupati perché la conferma del messaggero di stamattina che si paga anche canone Rai con più casa, seconda casa, doppio canone, giustamente iniziando a far preoccupare molti. Che volete che vi dica? Attualmente così sembra, poi quando ci sarà la regola capiremo quante volte chi ha più case, giustamente siete ricchi, cosa volete? Dovete pagare, no? Pagate più canone, che volete da me? Che dice Carlo? No, io dico che il problema è avere o non avere una TV pubblica e discutere della natura della magari, giustificazione del canone. Magari. Se devo pagare per Ballando sotto le stelle, non me ne vuole l'antica Barbara Carfagna, non penso che sia servizio pubblico essenziale. Bravo, mi spiace, non lo penso. Bravo. Quindi sono convinto, peraltro, che una quota del giornalismo o verrà pagata da sussidi pubblici o semplicemente piano piano scomparirà, quindi ci sta ancora, sia chiaro, ma con criteri diversi. Quindi prima di tutto riduschiamo che cos'è servizio pubblico, poi facciamo pagare il canone, dopo però. Allora avremo l'ennesima patrimonialina, no? Sì, cioè, beh, più case, più pseudocanoni, esatto, è tutto sì, perfetto, siamo un paese assolutamente egualitario, diciamo. Vabbè, di fronte a tutti questi bellissimi discorsi sul canone io vi saluto, ecco. Dico ai bambini di liberare il papà perché adesso finalmente arrivo io, mi prendo una macchina col car sharing qua sotto. Brava. Prenoto un pranzo con Gnamo perché tanto non so cucinare, voi lo sapete, mi faccio un weekend con Airbnb e quindi sono a posto e poi scriverò le mie recensioni. Se per caso non sarò soddisfatta diventerò una belva. Va bene. Grazie Francesca. Francesca. No, non so se avete capito, bambini potete liberare il papà. Mio Dio. Vabbè, ciao Francesca. Ciao. Simone da Firenze, Simone da Firenze, è in attesa da un po' la telefonata. Simone, c'è ancora? Lo so, perché poi quando aspettano troppo, va bene. Cioè, Simone, so solo che doveva chiamarci per la Sabatini. Ripeto, hanno dato 140 milioni alla legge di stabilità, tra le tante cose, ai forestali della Calabria, e danno 12 milioni in totale per il rifinanziamento della legge che serve a incentivare l'acquisto di nuovi macchinari industriali a tutte le imprese italiane. No, io non voglio dire niente. Io invece lo dico, questo paese non riparte con la produttività del lavoro finché stiamo sussidiando attività inutili a scopo sociale, invece impediamo, ricordo che il problema del PIL di questo paese non sono i consumi e non è certamente la spesa pubblica, è il crollo degli investimenti privati e pubblici che sta zavorrando la produttività di questo paese. Allora, dobbiamo porci un altro problema nel quadro delle cose che vorremmo cambiare nel nostro paese. Parliamo moltissimo di job ex, lavoro, eccetera, eccetera. Siamo sicuri che il nuovo lavoro, e per nuovo lavoro adesso tenderemo anche di capire che cos'è, sia compatibile con le attuali leggi, quelle di cui si discute nel mercato del lavoro e così via. Trovate sul sito della trasmissione, quindi come sempre Radio 24, programmi Conti della Belva, sul sito trovate un po' di documenti anche su questo tema qui, e tentiamo di capirlo insieme a una voce che ci seguirà di puntata in puntata quando noi toccheremo i temi del lavoro, come abbiamo già detto, cioè quella di ADAPT. ADAPT è un'associazione di studiosi del diritto del lavoro, giovani, meno giovani, ma soprattutto giovani anche in termini comparati rispetto agli altri paesi. Nasce sul solco del grande lavoro lasciato da Marco Biagi, lo ricordate, uno dei purtroppo dei professori di diritto del lavoro caduti sotto il piombo dei terroristi, tema delicato questo nel nostro paese, e che col professor Tiraboschi continua su questo solco. E con noi Emanuele Massagli oggi. Buongiorno e grazie Emanuele. Buongiorno. Allora, ci aiuti a capire un secondo questa cosa dei nuovi lavori e vecchi lavori, come funziona secondo te rispetto al dibattito che è in corso? Beh, il tema è molto attuale e ha due, secondo me, due capitoli. Da una parte è importante analizzare come evolvono nella realtà, non nelle leggi, come evolvono nella realtà i lavori tradizionali, che però sempre di più si misurano con nuove tecnologie, con nuove esigenze, con nuove richieste. Per cui da una parte c'è l'evoluzione in senso moderno dei lavori tradizionali, dall'altra c'è anche però il grande tema della nascita di nuovi lavori, per cui di lavori che effettivamente fino a qualche anno fa erano impensabili, sono soprattutto nell'ambito informatico, ma non solo, in buona parte c'entrano con la tecnologia, ma anche qui non è questo un dato esclusivo, e questi sono lavori che fanno assolutamente fatica a essere inquadrati con le categorie tipiche non solo della legislazione del lavoro italiana, ma anche dei contratti collettivi principali che ci sono nel nostro paese. Cioè di fatto noi abbiamo degli informatici che lavorano col contratto dei metalmeccanici. Noi non solo abbiamo degli informatici che lavorano con i metalmeccanici o col contratto del commercio, che però è pensato soprattutto per il commercio a dettaglio, ma abbiamo anche le grandi società della consulenza e della revisione legale che applicano il metalmeccanico attualmente in Italia, per cui inquadrano in qualche modo i loro lavoratori secondo le declaratorie del contratto collettivo dei metalmeccanici, che è uno dei migliori in Italia, indubbiamente, per carità. Però è evidentemente ovviamente fatto per un altro tipo, per un altro tipo di lavoro. Sentiamo l'esperienza diretta di chi sul campo ha fondato insieme ad altri giovani un portale che si propone proprio di selezionare talenti o comunque profili, no, di questi nuovi lavori, mettendoli alla prova. Però si chiama Filippo Negri. Buongiorno e grazie di essere con noi, Filippo. Buongiorno a voi, buongiorno a voi. Allora, voi cosa fate e che cosa avete toccato con mano di fronte a questo mondo di lavori nuovi rispetto alla contrattualistica tradizionale? Sì, noi appunto abbiamo fondato a marzo di quest'anno questa startup innovativa che si occupa appunto di aiutare le aziende a fare delle scremature sui curriculum dei candidati, e lo facciamo attraverso dei test che hanno degli algoritmi adattivi. Quindi andiamo da una parte a vedere, a verificare in maniera attendibile le competenze dei candidati, soprattutto su questi nuovi lavori che si menzionavano, e allo stesso tempo facciamo analisi dati per verificare alcuni tratti psicodemografici dei candidati prendendoli da social network. Sì. Noi quello che sicuramente possiamo confermare, vista la nostra esperienza, è che il mercato del lavoro sta cambiando sia per quanto riguarda le forme, nel senso si pensa per esempio al freelancer, quindi a delle persone che cambiano spesso lavoro, forse non hanno neanche un contratto continuativo con un'azienda, ma cambiano da un lavoro all'altro, e allo stesso tempo tantissime opportunità che riguardano per esempio lavori nella robotica, intelligenza artificiale, programmazione di software, tutte queste categorie qua che non sono ancora inquadrate in dei sistemi contrattuali. Quindi questi sono un po'... E voi per primi, offrendo questo tipo di attività, che è proprio a sua volta un'attività di tipo nuova, no? Perché siete depositari di criteri di scelta che i vecchi uffici del personale non avevano, però voi per primi toccate con mano che c'è un problema, perché voi chi siete? Degli intermediari tradizionali, nuovi, così un po'? No, il punto è proprio questo, cioè come si parlava prima in trasmissione, che una delle problematiche più grosse che abbiamo avuto noi partendo con questa nuova attività imprenditoriale e di capire dove ci possiamo collocare in questa zona grigia, cioè se facciamo selezione e intermediazione del personale, come queste cose sono regolate, e anche come si diceva prima, l'impressione è che in qualche modo si debba comprare una licenza o un diritto di fare impresa in questo settore, no? E quindi c'è un po' questo problema di transizione. Cioè è chiaro, anche voi offrite, Filippo, offrite l'accesso a un bene esperienziale che è il lavoro di qualcuno, no? Io non so che cosa trovo quando assumo, e fate un lavoro importantissimo di riduzione delle quelle che si chiamano asimmetrie informative tra la domanda e l'offerta di lavoro. È un lavoro difficile, importantissimo, perché fa emergere il talento non dal pezzo di carta del curriculum scritto in maniera informale, ma da tanti punti di rilevazione delle informazioni. Vediamo se è tornato Simone da Firenze, perché è stato più tre quarti d'ora attaccato per avere la linea. Simone, prego. Sì, pronto. Eccoci. Sono in linea? Sì, è in linea. Sì, salve. Io sono un piccolo imprenditore, ho una mia azienda e volevo raccontare la disavventura alla Sabatini. Con la Sabatini, che è appunto la legge di incentivi per l'acquisto dei macchinari. Ovviamente, dovevamo fare un investimento su una macchina ad alta tecnologia, una macchina giapponese per lavorazioni meccaniche, costosa abbastanza, siamo su 240.000 euro. E praticamente, sì, la Sabatini l'ho avuta, ho avuto un incentivo di circa 15.000 euro, ma 150.000 euro li ho dovuti mettere io per garanzia, se no la pratica non andava avanti. Cioè lei ha, dovuto stato... lei ha dovuto mettere, scusi se ho capito bene, 150.000 euro a garanzia in un fondo bloccato, del fatto che lo Stato gli desse forse 15.000. 15.000 me li dà, diciamo, come incentivo a fondo perduto, come interessi, sì, su questo finanziamento. Però per ottenerlo, dato che lo Stato non garantisce nulla del finanziamento stesso, la banca, o chi per essa comunque, vuole 150.000 euro bloccati come garanzia, se no non eroga il finanziamento e quindi la pratica non si conclude. Certo. Quindi i soldi li danno a chi ce l'ha, come la famosa storia dell'ombrello del banchiere che si apre quando eccetera eccetera eccetera. Allora, detto tutto questo, Simone, lei parla di un problema che riguarda la procedura ordinaria, il fatto è che comunque la Sabatini è definanziata, ecco, per l'anno prossimo, quindi che si dice che poi gli investimenti, Carlo Alberto, quello che ha detto prima sugli investimenti, però di fatto... Sì, lo Stato non sta incentivando gli investimenti, sta incentivando spesa pubblica distributiva e non certamente la ricostruzione della piattaforma di produttività del paese. La Sabatini era una delle poche leggi utilizzate in questo paese, praticamente adesso è esaurita, è secca, perché 12 milioni servono sì o no per rifare qualche tornio e qualche fresa. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamo. Imposta frutti della belva. Allora, torniamo a occuparci di lavoro, ma abbiamo visto c'è un problema, sì, c'è un problema di contrattualistica e non solo di impostazione tra nuovo lavoro e vecchio lavoro, ma c'è un enorme problema nel nostro paese, che è quello delle politiche per il lavoro. Noi abbiamo troppe politiche passive per il lavoro, cioè significa, in altre parole, CIG, ordinaria, straordinaria, in deroga e così via, e troppo poco invece politiche attive per il lavoro, cioè spendiamo dai 5 a 6 volte di più nel sistema CIG rispetto a quello che spendiamo nelle politiche attive. E le politiche attive, lo sapete, fino a ieri erano praticamente gli uffici provinciali del lavoro, che di lavoro lo danno a chi ci lavora dentro, perché per il resto intermediano meno del 2% della domanda offerta lavoro. Ecco, continuiamo a parlarle con gli amici di ADAPT, e in questo ci ha raggiunto Francesco Seghezzi. Seghezzi, buongiorno e grazie di essere con noi, Francesco. Buongiorno, grazie a voi dell'invito. Allora, vogliamo parlare di questo flop abbastanza inquietante di Garanzia Giovani, oltre 200.000 di tutti quelli che si erano iscritti credendo che coi soldi dell'Unione Europea, finalmente una dotazione superiore al miliardo e così via, ci fosse davvero un segno positivo nelle politiche attive, e invece è finito che, anzi, ci dica lei quanti hanno avuto almeno un primo colloquio di quelli che si erano iscritti. Allora, è uscito proprio ieri l'ultimo monitoraggio del Ministero del Lavoro, che diffonde ogni venerdì questi dati, dicono che su circa 300.000 giovani che sono iscritti al piano a partire dal 1 maggio, quando la Garanzia Giovani ha preso il via, circa 98.000 hanno avuto un primo colloquio e una prima profilazione. E quindi, come dico io, 200.000 almeno sono stati presi per il culo. Io uso ecco, come sempre, un linguaggio torbido da diplomato, però li abbiamo presi per i fondelli, 200.000 su 300.000. Al momento sì, diciamo che ci sono 200.000 persone, che 200.000 giovani oltretutto, certo, quindi i cosiddetti rassegnati, inattivi e tutto, che hanno provato a fare qualcosa, ma sono ancora lì a aspettare. E questo, secondo me, ha due tipi di problemi. Uno, di fiducia da parte dei giovani, che sicuramente cala, la disillusione aumenta, eccetera. Secondo, è un problema più ampio, legato a quello che diceva lei adesso. Ci stiamo giocando la possibilità di rivoluzionare il sistema delle politiche del lavoro, una volta che abbiamo 1,5 miliardi per poterlo fare. Non è che ci stanno chiedendo cose, sforzi, eccetera, ma ci sono fondi volti a questo. Quindi è giusto spendere, Francesco, è giusto spendere, ma non necessariamente farli spendere con servizi statalizzati. Se diamo un voucher a questi ragazzi, gli diciamo di andarsi a fare una profilatura sui servizi privati di certificazione dei CV, non è vero che il mercato è un po' più liquido e incentiviamo l'innovazione, Francesco? È proprio questo che dico. La possibilità di questi fondi per cambiare il sistema delle politiche vuol dire un sistema nuovo, che per l'Italia è nuovo, ma per l'Europa non lo è assolutamente, di pubblico e privato, agenzie private, centri per l'impiego pubblico, che entrambi forniscono un servizio che è pubblico, mentre in Italia c'è ancora il... Ieri sera eravamo a Firenze, io e te, con Simona Bonafè, esatto, abbiamo parlato esattamente di questo, e Simona Bonafè, onorevole del PD che ha incarichi importanti in questo settore, ha celebrato questa agenzia come se fosse una grande innovazione europea. In realtà siamo in netto ritardo, perché gli altri ce l'hanno già e hanno un sistema misto pubblico-privato molto più efficiente. Assolutamente, per questo che io dico che siamo in ritardo e non stiamo creando nulla di nuovo. Esatto. Quello che l'Europa ci chiede è di allinearsi a sistemi che funzionano, soprattutto nel nord Europa. Quello tedesco. E qui non funziona bene il pubblico, ma soprattutto non lascia spazio al privato di sperimentare, di innovare, prendendosi qualche rischio. Senza dubbio, sia chiaro che la certificazione assoluta dello Stato sovietico è perfetta e garantisce tutti. Certo, fa morire tutti. Esattamente. Questo è il piccolo problema. La morte di tutti. La morte di tutti. Sentiamo appunto una delle 200.000, uno dei 200.000, in questo caso una, Maria Sole Barbato, che la Garanzia Giovani ci ha creduto e si è iscritta. Buongiorno Maria Sole, grazie di essere con noi. Buongiorno, grazie. Allora, bene, vi racconto la mia esperienza con Garanzia Giovani. Sì. Io ho 25 anni, mi sono laureata a marzo e a giugno mi sono iscritta al portale nazionale aderendo al programma per diverse regioni, e soltanto un mese e mezzo dopo ho ricevuto la prima mail con scritto che mi avrebbero contattata, ma non è stato così. Quindi a settembre ho deciso di recarmi di persona per verificare la situazione. Parlando con l'impiegato, per caso vedo una lista di nomi sulla quale c'era anche il mio, ma era stato depennato e io non avevo ricevuto chiamata. Chiedo spiegazione, l'impiegato si trovava in evidente difficoltà e mi risponde che c'era stato un blocco a livello europeo del programma, cosa che mi sembrava alquanto strana, per quello che ne sapessi. Niente, la storia si conclude che ricevo una mail a novembre, due settimane fa, sì, fino a ottobre, inizio novembre, con scritto che mi avrebbero chiamata subito, a breve, sì. Ma non ho ricevuto chiamata. In questo caso, questi incontri, queste dichiarazioni avvenivano presso un ufficio che si trovava dove? Che articolazione periferica era dello Stato? È la mia regione di residenza, Calabria, quindi quello di competenza, sì, che mi aveva in carico. Allora, visto che abbiamo ancora collegato Emanuele Massagli, ce l'abbiamo, è vero Emanuele? Sì, ci sono. Emanuele, posso farti una domanda? Ma voi di ADAP ci credete davvero? Io lo spero, anche Carlo Alberto, si è capito, noi siamo degli ottimisti costruttivi, ma voi ci credete davvero che riusciremo ad avere un'agenzia, quella in attuazione di quello che c'è scritto nell'articolo Dr. Jobex, in cui si apre ai privati, c'è un sistema di accreditamento, di certificazione, si fa un po' alla tedesca quando coi pacchetti Arts cambiarono anche lì il sistema dell'incrocio tra domanda e offerta, oppure, per essere chiari, domanda chiara, i sindacati che controllano gli uffici provinciali, esatto, riusciranno a bloccarlo in conflitto di interessi. Che dice Emanuele? Noi ci crediamo. Innanzitutto rispondo anch'io con ottimismo dicendo ci crediamo, ma ci dobbiamo anche credere, perché comunque oltre alle questioni giuridiche ne va, in questo caso, sul caso proprio di Garanzia Giovani, ne va del futuro di 2.254.000 ragazzi che in Italia sono inattivi dai 15 ai 30 anni, per cui è un problema evidente. Sul fatto che sarà difficile ne sono certo, o meglio, a me pare che ci sia un cambio, un lento, però lento, molto più lento di come viene raccontato, cambio di cultura e di mentalità su questo rapporto pubblico-privato nel mercato del lavoro. Non sono così convinto che l'agenzia nazionale così strutturata sia la soluzione. Anch'io. Sono molto curioso di vedere i decreti attuativi, perché io temo davvero, voi se avete visto la delega è molto chiara nel dire che dentro l'agenzia confluirà tutto ciò che adesso fa servizio lavoro nelle regioni, nelle province, esatto, negli enti centrali dello Stato. Il cambio di passo c'è se cambiano la mentalità, e la mentalità cambia spesso, non è detto, però solitamente così, se cambiano le persone. Se c'è il vincolo di mantenere le stesse persone a fare più o meno le stesse cose con un'incapacità strutturale dello Stato a riqualificare le proprie persone, e allora incomincio a essere scettico. Ultima cosa, c'è una grossa arma che possono utilizzare gli avversari di questo progetto, che purtroppo è come è costruita la nostra Costituzione. E la nostra Costituzione, per un incauto intervento fatto nel 2001, ha assegnato le politiche attive, e non solo, formazione professionale e anche elementi legati a alcuni contratti di lavoro con l'apprendistato, nella componente formativa, eccetera, alle regioni. Quindi noi adesso, ad oggi, siamo nella situazione che abbiamo 22 regioni e province autonome, 22 diverse politiche attive in tutte le regioni italiane, e questa è una cosa paradossale in cui ci perde sicuramente poi il cittadino. Non c'è dubbio. Fammi dire una cosa, Emanuele, noi dovremmo avere una politica del lavoro dell'unico mercato del lavoro che oggi conta, che purtroppo è quello europeo, se no noi facciamo politica monetaria, politica fiscale centralizzata e il lavoro rimane iperframmentato, non si può fare. La mobilità del lavoro a livello europeo è condizione essenziale per costruire un'Europa che funziona, se no non funzionerà mai, esatto. Guarda, proprio non funzionerà mai. Mentre tutti pensano che il problema sia dotiamoci una banca centrale che acquisti i titoli, noi o unifichiamo i mercati dei beni e servizi e del lavoro. Altrimenti le diverse curve di costo territoriali non possono convergere come vasi comunicanti, quindi anche l'euro resta inefficiente, cioè questa è l'amara verità. Poi ogni Stato nazionale vuole tenersi le sue regolamentazioni nazionali. Mario, tu che dici? Sì, ascoltando quello che tu stai dicendo mi viene da pensare che non ci arriveremo mai però a questa cosa, quindi mi hai preso una botta di sconforto abbastanza subitanea. Comunque volevo sorridere anche per l'ascoltatrice, diciamo, la sua esperienza negativa con Garanzia Giovani. Possiamo dire, facendo una battuta per sdrammatizzare, che anche nel suo caso sembrava essere colpa dell'Europa, no? Il famoso blocco il famoso blocco del database a livello continentale. Comunque siamo fantasiosi nel trovare risposte, scuse, diciamo, e assolutamente scuse, e comunque che rimandano ad entità esterne che ci ostruiscono. Ohimè. Riccardo da Milano, sentiamo la sua esperienza. Riccardo, buongiorno. Buongiorno. L'esperienza che racconto forse non è nuova, è quella di un manager di 51 anni che da oramai quasi 3 anni cerca di ricominciare a lavorare stabilmente. Sì. In realtà non ci riesco, sono un precario, né più né meno come i giovani che escono dall'università, e non riesco a capire come sia possibile che in un paese che deve crescere internazionalmente, ha bisogno di risorse, quindi che hanno esperienza, capacità di muoversi, parlare le lingue, una persona che ha questa esperienza, ha queste capacità e competenze, non incontri delle aziende che ne hanno bisogno. E qui faccio un punto. Sì. La flessibilità. Adesso naturalmente io dovrei, se dovessi essere una specie di cane del padrone, dire: hai provato con Back to Work del gruppo Solo 24? Ecco, naturalmente io naturalmente non te lo dico, però io do per scontato che l'hai provato un po' tutto. Qual è la tua riflessione? Perché non ci riesci? Allora, perché non ci riesco? Allora, prima considerazione. Io credo che ci sia un problema, questo lo sanno forse tutti, di dimensione aziendale in Italia, cioè l'economia globale chiama azienda grande. Sì. Perché? Perché oppure azienda in cui resta il controllo familiare, ma questo non significa affatto che sia anche il management familiare, perché bisogna distinguere. In Italia io posso fare un suggerimento, è una provocazione, aboliamo la parola dirigente e la categoria dirigente, perché si porta presso un vissuto che è secondo me fuorviante e paradossalmente negativo per la categoria. Allora, esistono i manager, che sono persone che gestiscono con maggiori o minori responsabilità e teoricamente remunerati in funzione della loro responsabilità e dei risultati. Se viceversa, io metto questa parola che una volta era collegata anche allo status sociale, a un significato di raggiungere certi livelli, noi cosa facciamo? Facciamo che quando vado a parlare con l'azienda medio-piccola, mi presento e dico: ho lavorato nell'azienda A, B, C, tutti grandi nomi, tutti grandi multinazionali, viene immediatamente bollato come: ah, questo qua chissà cosa si aspetta. Allora io non mi aspetto nulla. Si accomodi fuori. Non mi aspetto nulla. Se volete pagarmi a partita IVA, mi pagate a partita IVA, contratto a progetto. Non è un problema contrattuale, non è un problema di pretese, è un problema di capire. Anche qui di mentalità un po', dice Riccardo. Io credo che purtroppo tutta la discussione, peraltro giustissima, sul Job Act, la normativa, la flessibilità, tenga poco conto di porti poco perché mancano le aziende grandi, sono, si contano sulla punta delle dita e stanno diminuendo. No Riccardo, ma il problema il nostro compito è anche quello di aprire le teste, appunto, e dobbiamo chiudere. Ma pensate a questo paradosso: lo sciopero in corso dei dipendenti dei call center che difendono il contratto a progetto che il Jobs Act chiude. Naturalmente anche loro vorrebbero il tempo indeterminato per tutti con tutte le garanzie, però loro dicono: nelle condizioni in cui siamo noi è stata una conquista. Se ce lo levate, noi andremo a casa. Guardate il paradosso della distanza tra la realtà di un mercato del lavoro che non descrivo come l'Eden. No, è ovvio che un contratto a progetto non è l'Eden, ma chi lavora nei call center scende in piazza e dice: oh, possibile, politici che non lo capite. Voi, in nome dell'ideale che a noi verrà negato, ci rimandate per strada. Questa è l'amara realtà del non capire i mestieri nuovi, le regolamentazioni nuove. E ripeto, io non voglio i tutti precari, però capire che cos'è il mercato del lavoro, le esigenze anche a breve di imprese che oggi o lo aiutiamo dal breve andare verso il medio, oppure se vogliamo che chiudano, io non so, non credo che sia meglio. Questo penultimo blocco ci occuperemo di una questione che riguarda la giustizia italiana, cioè la mala giustizia italiana. Questa settimana ho fatto un convegno sul recupero crediti e ho preso che cosa c'è per esempio sulla varianza vera rispetto alla media delle durate di un procedimento giurisdizionale di fallimento in Italia, perché nel fallimento noi siamo a 7 anni e qualche cosa. L'amara realtà è che in Italia abbiamo posti dove un fallimento giudiziale dura 3 anni e qualche cosa, come a Trieste, e abbiamo posti come Siracusa dove dura in media 17,9 anni con punte superiori ai 20 anni. Capite che cosa vuol dire 20 anni una procedura di fallimento? Ma per non fare come dire l'antimeridionalista, anche nel civilissimo Piemonte, nel nostro Piemonte Vercelli sono 15 anni e 9 mesi, quindi, non è una questione latitudine, Grosseto che è più di 15 anni, ecco. Quindi per carità hai perfettamente ragione, no, non c'entra niente sennò nord-sud. No, però voglio dire, la verità italiana è che c'è questo coefficiente di dispersione delle prestazioni, che non è un paese, sono 10 paesi diversi. La giustizia, siamo reduci da un feroce dibattito pubblico sulla sentenza Eternit. E la sentenza Eternit propone un problema. Qual è il problema? Vi dicono tutti che è cambiare le prescrizioni. Se leggete quello che ha scritto la Cassazione, il problema è che la procura ha sbagliato reato. Perché se avesse proceduto per le vittime, la prescrizione non c'era. Invece, credendo che il disastro ambientale fosse più facilmente probabile nel dibattimento, ha ignorato che in quel caso purtroppo la prescrizione era già scattata. E la procura che ha sbagliato, capito? Guariniello. Allora, eppure vi dicono che la questione è perché c'è la prescrizione a favore dei furbi. No, non è così. Leggete anche questo, in questo caso, quello che scrive la Corte di Cassazione, perdonatemi. Però andiamo al punto. Il punto è di un testimone che ci racconta che cosa è successo alla sua impresa. Un fallimento che letteralmente non doveva avvenire. È così, Gianpaolo Lixia? Sì, esatto. Allora, il problema era questo. Noi avevamo un decreto di fallimento emesso per un credito non vantato da circa 2 anni. Il ricorrente ha pensato bene, invece di usare i normali metodi del decreto ingiuntivo, di fare ricorso di fallimento. Poiché il credito era in contestazione, non abbiamo... è stata valutata da parte dell'amministratore di non andare in via di trovare un accordo e di andare direttamente a sentenza del fallimento. Il giudice ha decretato il fallimento della società. Perché in parole povere, spieghiamo a chi tecnicamente non capisce bene, voi non eravate in presenza di un titolo esecutivo di fronte al quale dice vabbè ci mandano a fallimento, non c'era il titolo esecutivo, dice ma troveremo un accordo, quindi vabbè non perdiamo tempo, chiaro? Così. Perfetto, le fatture erano in contestazione perché i lavori erano stati contestati ed era tra l'altro questo credito risaliva a 2 anni antecedenti, giusto per capirci, durante i due anni il creditore non ha fatto nulla per richiedere il credito, neanche una raccomandata rimessa in moto. E invece che cosa succede? Siamo andati a sentenza, il giudice ha decretato il fallimento della società, basando su due elementi, sul precetto, che quindi come lei mi insegna è un titolo esecutivo, che non era presente. Che non c'era. E su, sostanzialmente su una sentenza del giudice del lavoro che non era stata impugnata e che quindi era esecutiva per 30.000 euro. Noi non avevamo mai avuto una causa col giudice del lavoro e quindi una sentenza completamente inventata. Più che inventata, probabilmente nella valutazione avrà fatto si sarà confuso fra qualche altro tipo di fallimento, di caso che trattava. Però era citata nell'ambito del. Comunque, nel precetto, nella sentenza in base a cui il dispositivo della decisione è quella di farvi fallire, nel precetto nei confronti vostri, nella sentenza riguardava voi. Quindi, tecnicamente, il fallimento era pronunciato sulla vostra impresa per ragioni insussistenti. Perfetto. Abbiamo fatto ricorso a questa sentenza di fallimento. La prima difficoltà è trovare un avvocato che fa, capace di fare il ricorso, perché tutti sostengono la tesi che difficilmente viene revocato un fallimento. E qui spieghiamo perché noi siamo in un paese in cui quando si arriva a fallimento, di solito non è in contenzioso, si arriva in una condizione tale per cui è de plano che è proprio il fallimento. Questo è il motivo per cui l'avvocato dice ma che mi chiede di fare appello? Perché la sua circostanza è molto rara in realtà, però avviene. A quel punto? Perfetto, era luglio, sentenza messa in metà luglio, c'è la feriale, quindi la discussione del ricorso si lista al 1 ottobre, ci sono 60 giorni. Naturalmente il fallimento, come lei sa, la richiesta, l'appello al fallimento non blocca la procedura, quindi la procedura continua ad andare avanti. Viene nominato un curatore che fa pochi adempimenti, blocca i mezzi perché questa è una società che si occupava di service televisivo, quindi riprese per i nostri clienti erano Mediaset, Rai e via dicendo, tutto bloccato. Perché il curatore a quel punto in un fallimento blocca i mezzi perché evita che si accumulino altri costi, nel vostro caso però significava bloccare l'operatività di una società che non doveva essere in fallimento, però il curatore fa il suo mestiere e quindi vi blocca. Esatto, tra l'altro non inizia neanche l'attività, ma giustamente perché si rende conto della circostanza che il fallimento era completamente inesistente, c'era l'appello, non inizia l'attività. Di fatto l'8 ottobre viene il fallimento, vinciamo l'appello, quindi il fallimento viene revocato. Sì. Adesso iniziano tutta una serie di problemi. Mentre quando viene emessa la sentenza di fallimento la Camera di Commercio è abbastanza soleste a registrarlo per dare la pubblicità, una volta che viene effettuata la revoca diventa complicatissimo perché per tutta una serie di leggi che ci sono in Italia, tra cui quella quale che la pubblica amministrazione non può accettare da terzi documenti, la registrazione del fallimento, cioè la registrazione della revoca del fallimento, non del fallimento, della revoca. Esatto, è diventata una battaglia fatta contro la Camera di Commercio. Ci abbiamo messo praticamente un mese, 30 giorni. Naturalmente, se non avevamo la Camera di Commercio libera, quindi, cioè, vuol dire che quale non risulta il fallimento, il curatore non può, la società non era operativa. Allora, la domanda che le faccio è: per un fallimento che è stato comminato su base insussistente, per i limiti all'operatività, alla riscossione dei crediti, anche oltre che all'esecuzione di lavori dovuti alla nomina del curatore, per i danni subentranti per il ritardo della revoca e il ripieno ritorno all'esercizio della vostra libertà d'impresa, voi che cosa potrete chiedere allo Stato? Sostanzialmente, da quello che ci ha spiegato l'avvocato, nulla. Ecco, lo ripeta. Nulla. A fronte a delle perdite per noi intorno ai 150.000 euro. Ah. Perché il curatore ha proprio presentato un conto di circa 7.000 euro. Solo questo volevo che dicesse chiaro. Riflettete voi che siete in ascolto e che pensate che la giustizia dello Stato, naturalmente, è monda da ogni errore. Ed eccoci qui, tornate in diretta. Voi lo sapete che la nostra tradizione è chiudere questa prima puntata dei Conti della Belva con una rubrica del non si può fare. Già ne abbiamo sentita una, questo fallimento che non doveva avvenire e rispetto a cui chi si becca i danni non potrà chiedere niente allo Stato, ma il non si può fare che noi affidiamo tutta la settimana in questo spirito. Io sono un cittadino che pago le tasse, lo Stato mi deve proteggere, voglio i carabinieri, la fanteria, i bersaglieri. Andiamo, non esageriamo, signor Bonocore. E non alziamo la voce. Ecco, in questo spirito del totò che paga le tasse maltrattato, il nostro testimonial fisso è un imprenditore che ha la caparbia età e insieme anche la lingua abbastanza tagliente, come Renato Cifarelli. Grazie di essere con noi, Renato. Buongiorno, ciao Oscar e buongiorno a tutti. Allora, da che partiamo oggi? No, oggi, visto che parlavamo di sharing economy e parliamo di web e tutte queste belle cose, volevo raccontarti una cosa che succede nelle aziende. Tutti accusano le piccole e medie aziende di non essere fra quelli che utilizzano l'e-commerce. Poi tu usi l'e-commerce per comprare, ad esempio, del software, e le parti di procedura per registrare una fattura di 30 o 40 euro che magari costa un software che scarichi dalla rete sono talmente complicate che nel 90% dei casi le piccole aziende cosa fanno? Tiro fuori la mia personale carta di credito, compro con la mia carta di credito i 20 o 30 euro per evitare all'azienda di doverne investire magari 100 o 150 in procedure per poi registrare il software. Cioè siamo così ancora nemici dell'e-commerce persino fatto da azienda in questo caso, non da... Sì, eh? Sì, perché allora il primo problema che hai è quello di avere una fattura che vada bene alla finanza italiana, quindi con tutte le intestazioni, perché all'estero molto spesso le procedure sono molto molto più morbide, soprattutto per i piccoli importi, quindi quello che succede è che tu hai bisogno di una fattura in cui ci sia la partita IVA, l'intestazione dell'azienda, tutte le cose che vuole la finanza italiana, e non tutti i siti di e-commerce naturalmente sono attrezzati per farlo. E la seconda cosa è che poi c'è tutto un sistema di registrazione per cui devi fare l'autofattura, registrarlo sia come fornitore che come cliente, eccetera eccetera, e a quel punto lì ti costa di più che non spendere tu i 20 euro. Hai capito, ma insomma questo e-commerce, Carlo Alberto, Ma l'e-commerce ancora una volta pone uno stress sulle procedure burocratiche dello Stato che sono basate su documenti, su istanze di dati che in realtà esistono già. L'e-commerce è un modo per sostituire la burocrazia statale, non per aggiungersi adesso, e questo è un tema che dobbiamo assolutamente capire. Però io devo farti una domanda, Renato, ma sento delle voci sul fondo, non è che sei in qualche contesto di sharing economy anche tu? No, io sono in un posto... sai che io sono un motociclista, però di una parrocchia diversa dalla tua. Io dico sempre vada per il car sharing, ma scordatevi la condivisione motociclistica. Io la mia Belva rossa K1200 non la condivido con nessuno. Io invece vado in giro su questo ferro, sono seduto su un ferro in questo momento e sono a Lucca perché oggi c'è una cosa, un raduno. Un raduno di... Stasera siamo a Firenze. Ma vogliamo dire di quale tribù sei fan? Sì, Renato, vogliamo dire, diciamolo. Ah no, io sono... l'ho già detto. Tu sei un'aquila che vola da sola, diciamoci la verità. Siamo capire. Sono seduto su un Harley Davidson. Sei seduto su un Harley... Sentiamo Marinella dalla provincia di Novara perché questo ci tengo. Marinella. Sì. buonasera. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buonasera, iniziamo allora, a preoccuparmi. Troppo presto. Volevo solo, innanzitutto complimentarmi con lei. Vabbè. Ma al punto. La farei come minimo. Al punto, conosco. Marinella, è su. Al punto. Ecco, una sola questione su Back to Work. Lei giustamente prima ha detto se fossi di. Consiglierei Back to Work. Sì. Io purtroppo vi trovo a dire che Back to Work in realtà non funziona proprio esattamente come dicono. Perché lo sapevo, Marinella, che adesso mi metti nei guai. Però per No. Marinella, non voglio mettere nei guai. No, aspetta, perché questo è delicato. È delicato perché questo dire che Back to Work è offerto al gruppo Sole 24 Ore. Tu telefoni e giustamente dici non funziona. Io penso che ti devo mandare in onda due volte. Quindi lo dico a chi adesso poi dopo mi tirerà le orecchie. Però racconta la tua esperienza, Marinella. No, perché? Innanzitutto, se la richiesta viene fatta da una persona che ha bisogno di cercare un lavoro in alternativa a quello che ha perso, eccetera, eccetera, non gli si può chiedere un pagamento anticipato di una prestazione che non abbiamo ancora avuto, okay. Perché naturalmente questa persona probabilmente non avrà la disponibilità per poterlo fare, quindi già si trova in questa difficoltà. Per quanto riguarda le aziende, come noi abbiamo avuto questa esperienza, abbiamo avuto il contatto con Back to Work, la richiesta naturalmente del pagamento anticipato di tutta guarda la procedura. Guarda che il tempo sta finendo, ma non è per censurarti, rapida. Di tutta la procedura, e però sono venuti quattro persone diverse nel tempo, di cui non avevano nessuna conoscenza, okay, del settore. Ok, e quindi non sei soddisfatto. Marinella, richiama, ti rimando in onda, perché a questo punto io devo salutare e dire continuate 424, appuntamento col Colti della Belva sabato prossimo, appuntamento con la versione di Oscar lunedì alle 16:30. Fratelli d'Italia, l'Italia, le messe.